di Selma Lagerlöf, Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, traduzione di Francesco Saba Sardi, Arnoldo Mondadori editore. Il ragazzo. Il coboldo. Domenica 20 marzo. C'era una volta un ragazzo, aveva circa 14 anni, era alto con bei lineamenti e capelli biondi come il lino. Purtroppo era un perdigiorno. Le sue occupazioni preferite erano dormire e mangiare, oltre a giocare brutti tiri. Una domenica mattina i suoi genitori si preparavano per andare in chiesa. Il ragazzo, invece, seduto in maniche di camicia sulla sponda del tavolo, pensava che era una gran bella cosa che andassero fuori dai piedi, così lui, per un paio d'ore, sarebbe stato padrone di fare quel che voleva. Già pensava di staccare dal muro il fucile del padre e di sparare un paio di colpi senza che nessuno trovasse nulla da ridire. Ma pareva che il padre gli avesse letto nel pensiero perché, al momento di uscire, si voltò indietro a dirgli: «Visto che non vuoi venire con noi in chiesa, potresti perlomeno leggerti la predica qui in casa. Me lo prometti?» «Certo, se proprio vuoi», rispose il ragazzo dentro di sé pensando di leggere invece quel che gli pareva. La madre, che si era affrettata a togliere dallo scaffale il grosso volume dei sermoni, glielo mise già aperto lì sulla tavola sotto la finestra. Prese anche i Vangeli e li pose accanto all'altro libro. Infine accostò al tavolo la grande poltrona, acquistata l'anno prima alla vendita benefica del pastore di Vemmenhög Ovest e sulla quale di solito soltanto il padre di Nils era autorizzato a sedersi. Il ragazzo assisteva ai preparativi dicendosi che in realtà avrebbe letto solo un paio di pagine. Ma apparve che un'altra volta il padre gli avesse letto nei pensieri perché gli disse con tono severo: «Leggi attentamente. Quando rincaseremo ti interrogerò pagina per pagina e guai a te se ne avrai saltate». «Il sermone è di 14 pagine e mezza», aggiunse la madre. «Farai meglio metterti subito se vuoi finire in tempo». Finalmente i genitori se ne andarono e il ragazzo restò con l'impressione di essere caduto in trappola. «Chissà come se la godono», borbottò, «di avermi costretto a starmene col naso incollato a un libro». I suoi genitori in realtà non erano affatto contenti, ma anzi tristissimi. Erano poveri fittavoli, il loro podere non era più grande di un orto. E quando ci si erano stabiliti, non possedevano che un maiale e qualche gallina. Ma erano robusti e laboriosi, e adesso avevano alcune mucche e oche. Ce l'avevano fatta, insomma, e in quella bella mattina sarebbero stati sereni se non avessero avuto il rodimento del figlio. Il padre si angustiava a vederlo così svogliato e pigro. A scuola non imparava un bel nulla. Era appena in grado di condurre al pascolo le oche. La madre non negava che fosse così, ma soffriva soprattutto all'idea di avere un figlio discolo e insensibile, crudele con gli animali, maligno con gli esseri umani. «Che Dio gli tolga la cattiveria e gli dia un altro cuore», sospirava la donna, «altrimenti finirà con rovinare se stesso e noi». A lungo il ragazzo restò indeciso, ma alla fine si convinse che quella volta era meglio obbedire. Si accomodò nella grande poltrona e prese a leggere mormorando a voce bassa. Ben presto il suono della sua stessa voce gli fece venire sonno e si rese conto che stava per addormentarsi. Fuori era una splendida giornata di primavera. Si era appena al 20 marzo, ma il comune di Vemmenhög è situato nella Scania, regione della Scandinavia meridionale, e la primavera era già in fiore. Gli alberi non verdeggiavano ancora, ma apparivano coperti di gemme. L'acqua scorreva in ogni fossato, la farfara fioriva sui muretti. Laggiù, la foresta di faggi appariva ogni giorno più fitta. Il cielo sembrava altissimo ed era di un azzurro immacolato. Attraverso l'uscio semiaperto della casetta entravano nella stanza i trilli delle allodole. In cortile galline e oche razzolavano. Le mucche in fondo alla stalla sentivano aria di primavera e di tanto in tanto facevano udire lunghi muggiti. Il ragazzo leggeva, si assopiva, si svegliava di soprassalto, lottava contro la sonnolenza. «Non voglio dormire, altrimenti non finirò il sermone». Ma nonostante questo buon proposito, finì per cedere al sonno. Aveva dormito a lungo o solo per qualche istante? Non era in grado di dirlo, ma sapeva che a svegliarlo era stato un leggero scricchiolio alle sue spalle. Sul davanzale della finestra, proprio di fronte a lui, Stava un piccolo specchio in cui si rifletteva quasi tutta la stanza e il ragazzo vi vide spalancata la cassapanca della madre. Era un gran cassone di quercia, ornato di ferri battuti, che la donna non permetteva a nessuno di aprire. Vi custodiva tutto quanto aveva ereditato dalla propria madre e che le era caro: costumi contadini all'uso antico, di panno rosso con corti bustini, gonne pieghettate e giubbetti ornati di perline, fazzoletti bianchi inamidati, pesanti fibbie e catene d'argento. Abiti che la gente non voleva più indossare e a volte la madre del ragazzo si era proposta di disfarsene, ma mai ne aveva avuto il coraggio. Bene, il coperchio era sollevato, questo era certo, e il ragazzo non poteva darsene ragione perché la madre doveva averlo chiuso prima di uscire, mai l'aveva lasciato aperto quando il figlio restava solo a casa. Si sentiva sulle spine che un ladro si fosse introdotto in casa. Non osava muoversi, ma rimaneva lì immobile come un tronco a fissare lo specchio. E all'improvviso si chiese che cosa fosse quell'ombra nera comparsa sul bordo della cassapanca. Guardava, guardava e non credeva ai propri occhi. Quella che da prima gli era sembrata un'ombra stava divenendo qualcosa di preciso, un essere vivente, né più e nemmeno che un coboldo a cavalcioni della cassa. Il ragazzo aveva già udito storie di coboldi, una specie di gnomi, ma mai aveva creduto che fossero così piccoli. Quello che aveva sott'occhio non era più alto di un palmo. Aveva il volto glabro e rugoso di un vecchio, era vestito di una lunghissima palandrana nera, calzoni corti e un cappello nero a larghe tese. Al collo e ai polsi si arricciavano candidi pizzi, calzava scarpe con fibbie e aveva giarrettiere con grossi fiocchi. Dalla cassapanca aveva cavato un giubbetto ricamato e lo osservava con tanta attenzione da non accorgersi che il ragazzo si era svegliato. Alla vista del coboldo, Nils era rimasto di sasso, ma non aveva poi tanta paura, come si poteva temere un essere così piccolo. E poiché il coboldo era assorto nella contemplazione del ricamo al punto da non avere né orecchie né occhi, il ragazzo si disse che sarebbe stato divertente fargli un bel tiro, per esempio farlo cadere nella cassa e richiudere il coperchio o qualcosa di simile. Non aveva però il coraggio di toccare il nanetto e volse gli occhi all'ingiro in cerca di un oggetto con cui spingerlo. Lo sguardo gli si posò sul divano, poi sul tavolo, sulla stufa, sulle pentole e sulla caffettiera sopra lo scaffale. Sfiorò il fucile del padre appeso accanto ai ritratti del re e della regina di Svezia, le cassette di fiori sul davanzale, per fermarsi infine su una vecchia zanzariera fissata al telaio della finestra. Strappò la reticella e di scatto la lanciò. Restò meravigliato lui stesso. Aveva acchiappato il coboldo che adesso giaceva a testa in giù in fondo alla zanzariera dentro la cassapanca, incapace di liberarsi. Dapprima il ragazzo non seppe che farsene della preda e si limitò ad agitare la rete per evitare che il coboldo ne uscisse. Allora il nanetto cominciò a parlare e lo supplicò di rendergli la libertà. Per anni, gli disse, aveva fatto del bene alla sua famiglia e meritava ben altro trattamento. Se il ragazzo l'avesse lasciato libero, gli avrebbe regalato un vecchio tallero, un cucchiaio d'argento e una moneta d'oro grande quanto l'orologio di suo padre. L'offerta non parve troppo generosa al ragazzo, il quale però aveva paura del coboldo che pure teneva in suo potere. Si rendeva conto di avere a che fare con qualcosa di estraneo e spaventoso, non appartenente al suo mondo, e desiderava solo concludere l'avventura. Accettò dunque l'offerta e cessò di agitare la rete per permettere al nanetto di arrampicarsi sull'orlo della cassa. Ma quando lo vide uscirne, pensò che avrebbe potuto ottenere vantaggi ben più cospicui e tanto per cominciare avrebbe dovuto perlomeno esigere che gli facesse entrare nella zucca tutto quanto il sermone. Come sono stato stupido a cedere così in fretta, pensò, e si rimise ad agitare la rete per farvi ricadere dentro il coboldo. Ma aveva appena accennato al gesto che si sentì un ceffone tale da fargli sembrare che la testa gli fosse andata in pezzi. Fu sbattuto contro una parete, poi contro l'altra, cadde per terra e perdette i sensi. Quando li riprese, del coboldo non c'era traccia. Il coperchio della cassapanca era chiuso, la zanzariera pendeva al suo posto. Se non avesse sentito il bruciore dello schiaffo sulla guancia, si sarebbe persuaso che era stato soltanto un sogno. I miei genitori penseranno che ho proprio sognato, diranno che mi sono inventato tutto per non studiare il sermone. Sarà meglio che non perda altro tempo. Ma, come s'avviò al tavolo, notò una cosa strana. Non era possibile che la casa si fosse ingrandita, e d'altra parte come spiegare che doveva fare tanti passi per attraversare la stanza? Ed è la poltrona che n'era stato. Non sembrava più alta di prima, eppure per sedervisi dovette arrampicarsi sui braccioli. «Che diavolo succede?» esclamò. «Che il coboldo abbia gettato un incantesimo sulla poltrona? Il tavolo e tutta la stanza?» Il libro dei sermoni era ancora aperto e appariva immutato, e tuttavia il ragazzo, per leggerlo, dovette appollaiarvisi sopra. Scorse qualche riga, poi alzò gli occhi e lo sguardo gli cadde sullo specchio e gridò: «Toh! Eccone un altro!» Nello specchio si scorgeva infatti chiaramente un ometto in calzoncini di cuoio e berretto a punta. «Ma questo è vestito proprio come me!» esclamò il ragazzo, battendo le mani in atto di meraviglia. E l'omino nello specchio fece altrettanto. Il ragazzo allora cominciò a tirarsi i capelli, a darsi pizzicotti, a piroettare su se stesso, e l'omino, nello specchio, ripeteva ogni sua mossa. Il ragazzo corse dietro lo specchio per vedere se qualcuno vi si nascondesse. Nessuno. Allora cominciò a tremare, perché aveva ad un tratto compreso che il coboldo l'aveva stregato e che l'immagine riflessa era proprio la sua. Le oche selvatiche. Il ragazzo non riusciva a persuadersi di essere stato trasformato in coboldo. Doveva essere un sogno, un'illusione, e di lì a poco sarebbe tornato normale. Si piantò davanti allo specchio, chiuse gli occhi, contò fino a 100, li riaprì. L'incantesimo non era cessato, era sempre piccolo come prima. I capelli biondi, le lentiggini sul naso, le toppe ai calzoni di cuoio, le calze rammendate erano sempre le stesse, ma tutto era rimpicciolito. L'unica cosa da fare ora era scovare il coboldo e riconciliarsi. Saltò sul pavimento e si mise a frugare dietro le sedie e gli armadi, sotto il letto, nel focolare, persino nei buchi scavati dai topi. Invano. E cercando piangeva e faceva mille proponimenti. Mai più sarebbe venuto meno alla parola data, non sarebbe più stato disobbediente, non si sarebbe addormentato durante la lettura del sermone, sarebbe stato il ragazzo più buono e bravo del mondo. A un tratto si ricordò di aver udito dire dalla madre che i coboldi se ne stanno d'abitudine nelle stalle e decise di andarci. Per fortuna l'uscio di casa era rimasto aperto, altrimenti non sarebbe riuscito ad arrivare alla maniglia. In cortile cercò i suoi zoccoli. In casa stava con le sole calze ai piedi. Ma come avrebbe fatto a calzare zoccoli così grossi e pesanti? E fu allora che scoprì, sulla soglia, un paio di piccole calzature con la suola di legno. Il coboldo doveva essere stato tanto previdente da cambiargli anche gli zoccoli. E questo non voleva forse dire che la sua nuova condizione era destinata a durare? Oh! Davanti all'uscio, sulla panca di quercia, saltellava un passero che appena lo vide cinguettò: «Cip cip! Guardate Nils, il guardiano di oche! Guardate il ragazzo alto un pollice! Guardate Nils Holgersson, pollicino!» Oche e Polli si volsero a guardare e presero a schiamazzare. «Chicchiricchi!» cantò il gallo. «Ben gli sta!» «Co-co-co! Ben gli sta!» gli fecero eco le galline. E le oche si raccolsero e chiesero in coro: «Che cos'è stato? Che cos'è stato?» Strano, ma Nils capiva quello che dicevano e si fermò sulla soglia ad ascoltare. «Conosco il linguaggio degli uccelli perché mi sono trasformato in coboldo. Ecco cos'è», si disse. Lo irritava il fatto che le galline continuassero a strillare che ben gli stava, e tirò loro un sasso per farle smettere, gridando: «Zitte, bestiacce!» Purtroppo aveva dimenticato che non aveva più dimensioni tali da far paura ai polli. Tutti gli si precipitarono addosso e lo circondarono starnazzando più che mai. «Co-co-co, ben gli sta! Co-co-co, ben gli sta!» Nils tentò di svignarsela ai polli dietro, strillando tanto da assordarlo, e il ragazzo non sarebbe riuscito a liberarsene se non fosse comparso il gatto di casa. Come lo videro, i polli tacquero, fingendosi occupati solo a razzolare. Il ragazzo corse dal gatto. «Caro Micio!» gli disse. «Tu che conosci tutti gli angoli e i buchi della fattoria, sai dirmi dove posso trovare il coboldo?» Il gatto non rispose subito. Si sedette, si arrotolò elegantemente la coda intorno alle zampe e fissò il ragazzo. Era un gattone nero con una macchia bianca sul petto, il pelo morbido rilucente al sole, le unghie erano retratte, l'aspetto rassicurante. «Certo che so dove sta il coboldo», rispose con tono gentile, «ma credi forse che te lo voglia dire?» «Oh, caro, caro Micio, devi aiutarmi! Non vedi che mi ha stregato?» Il gatto socchiuse gli occhi e un verde lampo di malizia ne sfuggì. Prima di rispondere ronfò soddisfatto. «Speri forse che ti aiuti dopo che mi hai tirato tante volte la coda?» si decise finalmente a dire. A quell'uscita Nils andò su tutte le furie e, dimenticando di essere piccolo e inerme, gridò: «Te la tirerò! Te la tirerò ancora la coda! Adesso ti faccio vedere io!» In un attimo il gatto si trasformò, il dorso arcuato, le zampe come allungate, le unghie sfoderate, la bocca soffiante, le orecchie abbassate, il pelo irto, gli occhi che brillavano sinistramente. Nils non volle ammettere che un gatto potesse fargli paura e avanzò di un passo. Allora la bestia gli balzò addosso, lo gettò a terra e gli si piantò sopra, le zampe sul petto, le fauci spalancate a un dito dalla gola. Nils sentiva le unghie penetrargli attraverso la stoffa nella pelle, i denti acuminati sfiorargli la pelle, e invocò aiuto con quanto fiato aveva. Ma non venne nessuno e Nils pensò che la sua ultima ora fosse suonata. Invece sentì il gatto ritrarre le unghie e lasciare la presa. «Per ora basta», disse il felino, «ti lascio andare per riguardo alla padrona. Ho voluto solo mostrarti chi di noi è il più forte». E si allontanò lentamente con l'aria paciosa di prima. Ma che vergogna per Nils non poter reagire. Avvilito, andò nella stalla a continuare la ricerca del coboldo. C'erano solo tre mucche, le quali, vedendolo entrare, cominciarono a muggire come se fossero state 30. «Mu, mu!» faceva la rosa. «Non c'è giustizia a questo mondo!» «Mu, mu, mu!» facevano eco le altre mucche. Nils non riusciva a capire che cosa dicessero, tant'era il baccano. Avrebbe voluto chieder loro del coboldo, ma quelle non gli davano retta. Era una rivolta vera e propria. Le mucche si agitavano come quando si lasciava entrare nella stalla un cane sconosciuto. Scalciavano, agitavano le catene, volgevano il capo indietro, accennavano a vibrare cornate. «Fatti sotto!» gridava la rosa. «Ti darò un calcio che non dimenticherai mai più!» «Avanti! Avanti!» diceva la Silvia. «Ti farò danzare sulle mie corna!» «Vieni, vieni, che voglio far sentire a te il male che mi hai fatto l'anno scorso quando mi hai presa a zoccolate!» urlava la Stella. «E io ti ripagherò della vespa che mi hai messo nell'orecchio!» strillava la Silvia. Ma la più furibonda era la Rosa, che pure era la più anziana e assennata delle tre. «Fatti sotto», insisteva, «ti ripagherò per tutte le volte che hai tolto di soppiatto lo sgabello per far cadere tua madre che mi mungeva. Ti ripagherò di tutte le lacrime che le hai fatto versare». Nils avrebbe voluto dire che si pentiva della sua cattiveria, che prometteva di fare il bravo a patto che acconsentissero a dirgli dove trovare il coboldo. Ma le mucche seguitavano a muggire e a smaniare, tanto da fargli temere che spezzassero le cavezze, e Nils preferì svignarsela. Tornò in cortile tutto scoraggiato. Nessuno voleva aiutarlo nella ricerca del coboldo e anche se l'avesse trovato, chissà se il nanetto gli avrebbe ridato l'aspetto di prima. Si arrampicò sul muretto a secco che circondava la masseria e che qua e là scompariva sotto biancospini e rovi. Seduto lassù, si interrogò sul suo futuro. Che sorpresa quando i suoi fossero tornati dalla chiesa! Tutta la gente del paese si sarebbe meravigliata. Sarebbero venuti da Vemmenhögest, da Torp, da Skrup e da tutta la provincia per vederlo. Padre e madre l'avrebbero portato alla fiera di Kivik per esibirlo. Che vergogna! Non era più un essere umano, bensì un mostro. Un po' alla volta si rendeva conto di quanto atroce fosse non essere più umano. Non avrebbe più potuto giocare con gli altri ragazzi. Tra poco non ci sarebbe stata più nessuna disposta a sposarlo. E la casa, la piccola capanna di tronchi sormontata dal tetto di paglia, la stalla, il granaio, il fienile, per miserabili che fossero, gli sembravano adesso il massimo desiderabile. Il tempo era splendido. L'acqua mormorava, gli alberi germogliavano, gli uccelli cinguettavano, lui solo era infelice e nulla più lo avrebbe rallegrato. Il cielo non era mai stato così azzurro e gli uccelli migratori passavano a stormi, venivano da lontano, avevano attraversato il Baltico puntando diritto sul promontorio di Smygehuk e adesso si dirigevano verso il nord. Ve ne erano di varia specie, anche se Nils riconosceva solo le oche selvatiche che volavano in formazione triangolare. Parecchi stormi erano già passati, ma Nils continuava a udirle gridare: «Venite, venite con noi, stiamo andando a Fils!» Le oche domestiche levarono la testa per ascoltare il richiamo, ma risposero, piene di buonsenso come erano: «Stiamo troppo bene qui, stiamo troppo bene qui!» Era, lo si è detto, una giornata splendida con un'aria fresca e leggera che invitava al volo. E a mano che nuovi stormi passavano, le oche domestiche apparivano sempre più inquiete. Agitavano le ali come se volessero seguire le cugine selvatiche, ma ogni volta interveniva un'oca anziana ammonendole: «Non fate sciocchezze, quelle soffriranno il freddo e la fame!» Ma nel cuore di un giovane ocone i richiami avevano suscitato la febbre dell'avventura. «Se passa ancora uno stormo, andrò con loro», si disse. Ed ecco comparire un altro stormo. E l'ocone prese a gridare: «Aspettatemi, aspettatemi, vengo con voi!» Spiegò le ali e si staccò da terra, ma non avendo l'abitudine al volo, ricadde al suolo. Dal muretto, Nils vedeva e udiva tutto. Sarebbe stato un guaio se l'ocone, intento a rinnovare i propri sforzi, se la fosse svignata. Al ritorno il papà e la mamma si sarebbero arrabbiati moltissimo e, dimentico ancora una volta di essere piccolo e inetto, balzò in mezzo alle oche e afferrò il papero per il collo. «Tu resti qui, inteso?» gridò. Ma proprio in quel momento il papero aveva capito come fare ad alzarsi da terra e, dimentico nella foga di scrollarsi di dosso il ragazzo, lo portò in alto con sé. Salivano con velocità tale che Nils fu preso dalle vertigini e prima che gli passasse per la mente di lasciare il collo della candida oca, si ritrovò tanto in alto che se fosse ricaduto a terra si sarebbe sfracellato. Non gli restava che aggrapparsi con tutte le sue forze alla schiena del volatile. Bene o male, riuscì a tenersi in equilibrio sul dorso liscio e scivoloso tra le due ali battenti, stringendo penne e piume con le due mani. La stoffa a riquadri. A lungo Nils fu talmente preda delle vertigini da non riuscire a rendersi conto di niente. L'aria fischiava e lo frustava, le ali battevano, le penne sibilavano con fragore di tempesta. Attorno a lui 13 oche volavano, agitando le ali e schiamazzando. A Nils bruciavano gli occhi, ronzavano le orecchie, non sapeva se volava in alto o in basso, né tantomeno dove l'oca lo stesse portando. Alla fine si riprese e si rese conto che doveva tentare di capire in quale direzione stesse andando, ma non aveva il coraggio di guardare all'ingiù. Finì per vincere la paura e gli si offerse uno spettacolo singolare, quello di un'immensa tela suddivisa in una miriade di rettangolini. «Dove sono?» chiese ad alta voce. «E che cos'è quella strana tela laggiù?» Le oche che gli volavano intorno risposero: «Sono campi e prati, sono campi e prati!» Nils comprese allora che la stoffa a quadretti era null'altro che la pianura della Scania. I rettangoli verde tenero erano campi di segale, quelli gialli stoppie, quelli scuri campi arati, i neri prati trifoglio vecchio. Le macchioline non potevano essere che i tetti di paglia delle case. C'erano poi dei rettangoli verdi orlati di scuro tra l'uno e l'altro tetto, orti verdeggianti circondati da siepi e boschetti non ancora rivestiti di foglie. Alla vista di tutti quei rettangoli, adesso che aveva capito di che cosa si trattava, non poté trattenere una risata. Ma le oche lo udirono e gridarono con tono di rimprovero: «Paese buono e fertile! Paese buono e fertile!» E Nils tornò serio e si disse: «Come osi ridere tu, cui è capitata la più terribile sventura che possa toccare a un essere umano?» Ormai però si era abituato a quel modo di viaggiare e poteva pensare anche ad altro che non a tenersi semplicemente in equilibrio. Constatò ad esempio che l'aria era piena di stormi di uccelli, tutti diretti a nord, e dall'uno all'altro gruppo era un continuo scambio di richiami e saluti. «Ah, eccovi qua! Avete compiuto oggi la traversata?» gridavano alcuni uccelli. Ma sì!» rispondevano le oche. «A che punto è la primavera?» «Non ha ancora una foglia sugli alberi e l'acqua dei laghi è gelata!» suonò la risposta. Nils notò che le oche non volavano in linea retta, ma che si spostavano qua e là, liete di essere tornate e di salutare ogni villaggio e casolare. Passarono anche sopra un grande edificio coronato da alte ciminiere, ai cui piedi erano accoccolate alcune casupole. «È lo zuccherificio di Jordberga! È lo zuccherificio di Jordberga!» gridarono da terra i galli. Nils trasalì. Come mai non aveva riconosciuto il posto? Era a due passi da casa sua e a Jordberga l'estate scorsa aveva fatto il guardiano di oche e conosciuto Osa, la guardiana, e il piccolo Mats con cui aveva fatto amicizia. Chissà cosa avrebbero detto ora se avessero saputo che volava sopra le loro teste. Ben presto però perse di vista anche Jordberga. Volavano adesso verso Svedala e il lago Skaber, girando poi in direzione del convento Böringe, e Nils, in quell'unica giornata, aveva visto più cose della Scania che in tutta la sua vita. Quando le oche selvatiche ne incontravano di domestiche, si divertivano più che mai, rallentavano il volo e gridavano: «Stiamo andando, ai fields! Perché non venite? Perché non venite?» Ma le oche domestiche rispondevano: «L'inverno non è ancora passato, siete arrivate troppo presto, tornate indietro, tornate indietro!» Le oche selvatiche scendevano bassissime per farsi udire meglio e gridavano: «Venite con noi, vi insegneremo a volare e a nuotare!» Ma le altre facevano le offese e non si degnavano più di rispondere, e allora le oche selvatiche calavano ancora più giù, tanto da toccare quasi terra, per poi risalire come frecce fingendosi spaventate. «Oi, oi!» gridavano. «Non erano oche, erano solo pecore!» E le oche domestiche infuriate: «Che possano abbattervi a fucilate e mettervi tutte in pentola a bollire al forno!» Il ragazzo a quei battibecchi rideva. Non aveva mai viaggiato con tanta rapidità e gli era sempre piaciuto andare a cavallo, spingendo la bestia alla massima velocità in una corsa sfrenata. Non aveva mai supposto che lassù l'aria fosse così fine e che il profumo della terra e dei boschi salisse tanto in alto. E com'era divertente volare al di sopra della terra! Era come abbandonare tutte le precauzioni, staccarsi dai pensieri e dagli assilli di ogni genere. H di Kebnekaise. La sera, il grosso ocone bianco che si era unito alle oche selvatiche era fierissimo di sorvolare il paese, in loro compagnia e di farsi beffe dei volatili domestici. Ma per quanto felice, cominciava a essere stanco. Si sforzava, è vero, di respirare più a fondo, di battere più in fretta le ali, ma la distanza tra lui e le altre oche aumentava. Quelle che erano in coda allo stormo, resesi conto che non riusciva più a seguirle, chiamarono l'oca che volava in testa. «H di Kebnekaise! H di Kebnekaise! Che vi succede? L'ocone bianco resta indietro! Spiegategli che si fa meno fatica a volare in fretta che ad agio!» gridò H senza rallentare il ritmo. L'ocone si sforzò di seguire il consiglio di accelerare, ma ben presto si sentì talmente sfinito che scese fin quasi all'altezza dei salici che bordavano campi e strade. «H! H di Kebnekaise!» gridarono le oche di coda, accortesi dello sfinimento dell'ocone. «Che volete ancora?» chiese H con tono molto seccato. «L'ocone bianco cade! L'ocone bianco cade!» «Ditegli che volare in alto è più facile che volare in basso», ribatté H e continuò col ritmo di prima. Il papero si obbligò a seguire anche questo consiglio, ma lo sforzo di salire gli dava un tale affanno che gli pareva che il petto stesse per scoppiargli. «Acca! Acca!» presero a gridare le oche ai lati della formazione. «Non potete lasciarmi in pace?» rispose Acca più seccata che mai. «L'ocone bianco sta per scoppiare! L'ocone bianco sta per scoppiare!» «Chi non sa volare in formazione se ne vada!» rispose l'oca di testa, senza neppure sognarsi di rallentare il suo volo. «Ah, è così dunque!» si disse il papero domestico. Le oche selvatiche non avevano nessuna intenzione di condurlo con loro in Lapponia. L'avevano persuaso a lasciare casa sua solo per divertirsi alle sue spalle. Era furibondo che le forze lo tradissero proprio adesso che aveva l'occasione di dimostrare a quelle vagabonde che un'oca domestica non era da meno di loro. Doveva proprio capitargli di imbattersi in Acca di Kebnekaise. Ne aveva udito parlare, naturalmente. Acca godeva di tale reputazione che tutte le migliori oche selvatiche volevano far parte del suo stormo. Ma nessuno disprezzava le oche domestiche quanto Acca e la sua banda. Per questo il papero avrebbe voluto mostrare che non era inferiore a loro. Le seguiva lentamente, incerto se proseguire e tornare indietro o tornare indietro. In quella, l'ometto che portava sulla schiena gli disse: «Caro Morten», così si chiamava il papero, «un'oca che non ha mai volato non può seguire le selvatiche fino in Lapponia. Non pensi che faresti meglio a tornare a casa prima di farti del male?» Quelle parole irritarono l'ocone, il quale, proprio perché il nanetto non lo credeva in grado di compiere il viaggio, decise di tener duro. «Se dici ancora una parola ti butto nel primo stagno che incontriamo», sibilò. E la collera gli diede una tale energia da farlo volare proprio come le altre. Probabilmente non avrebbe potuto resistere a lungo, ma per fortuna il sole calava e non appena fu tramontato le oche scesero in picchiata. E prima di rendersene conto, il ragazzo e il papero si ritrovarono sulle rive del lago Vomb. «Credo che passeremo qua la notte», disse Nils balzando a terra. Si trovava su una stretta riva sabbiosa. Davanti a lui un gran lago dall'aspetto tutt'altro che rassicurante. Una distesa di ghiaccio lo copriva, quasi completamente scura, scabrosa, tutta crepaci e fenditure. Il ghiaccio però sarebbe ben presto scomparso, si era già staccato dalla riva. Aveva tutto intorno una zona d'acqua nera, luccicante, anche se continuava a diffondere freddo e tristezza invernali. Di là dal lago si vedevano campi coltivati, ma dove le oche erano atterrate nereggiava una grande foresta di abeti che pareva avesse il potere di trattenere l'inverno. La neve era ovunque scomparsa, tranne che sotto i rami intrecciati degli alberi, dove in parte si era sciolta e poi congelata a più riprese, divenendo dura come pietra. Nils ebbe l'impressione di essere giunto in un deserto polare e per poco non urlò dalla disperazione. Aveva fame, in tutto il giorno non aveva mangiato niente, ma dove trovare del cibo? In marzo né il suolo né gli alberi offrono nulla di commestibile. E dunque come sostentarsi? E chi gli avrebbe dato da dormire? Chi gli avrebbe rifatto il letto? Chi gli avrebbe fatto posto accanto al fuoco? E chi l'avrebbe difeso dagli animali selvatici?